Perfetto Notte. Le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Se ci arriverà la letterina, faremo come ha fatto rispetto a una serie di rilievi, faremo come hanno fatto altri paesi, cioè la Germania, la Spagna, l'Ungheria e anche altri paesi ancora, la Francia, e cioè faremo niente, come non hanno fatto niente gli altri. Quando l'Europa gli ha scritto, niente faremo noi. È chiaro, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, la letterina di cui parlava Alfano non è quella di Babbo Natale, anche se ci siamo un po' vicini, diciamo, ma quella che dovrebbe arrivare, la tanto temuta, ma anche se, diciamo, ostentava Alfano una certa serenità, la tanto temuta lettera che dovrebbe arrivare dall'Europa all'Italia sulla manovra economica, sulla legge di bilancio, con i vari rilievi per dire questo non va, questo andrebbe corretto, eccetera eccetera. Anche Renzi ha parlato stasera al TG5, ha mostrato assoluta sicurezza dicendo: io non mi faccio indicare da tecnocrati cosa devo fare e cosa non devo fare. Poi ce ne occuperemo stasera con Effetto Notte, tanto per ricominciare la settimana del programma, e poi tanti altri temi. Ci collegheremo con la Francia, dove a Calais, proprio sullo stretto della Manica, è cominciata oggi l'evacuazione della più grande bidonville d'Europa, no? Che rappresenta, diciamo, molto il simbolo della crisi migratoria dell'Europa in questi tempi. Poi c'è un allarme nuovo, l'ennesimo, sul clima, ma questo sembra ancora più grave degli altri. Ci collegheremo con un esperto di ambiente e di clima per capire qual è la portata di questi rischi e anche se ci sono delle eventuali soluzioni. Alleggeriremo con la questione dell'Inter: resta o va l'allenatore, che comunque è, diciamo, in bilico e sul filo sicuramente, e poi anche il pallone d'oro, perché tra i candidati c'è Gigi Buffon. Insomma, un sacco di notizie. Voi potete come sempre interagire qui a Effetto Notte con la pagina Facebook del programma, pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666, 349-238-6666. Ma prima, come sempre, vediamo che giornata è stata. Manovra economica, in arrivo la lettera della Commissione europea con i rilievi sulla legge di bilancio. Quando arriverà, sottolinea il ministro Alfano, non faremo niente, proprio come altri paesi. Migranti a Calais in Francia, è cominciato lo sgombero della giungla. E per quanto riguarda l'Italia, il 2016 è stato un anno record, sono arrivate già oltre 150.000 persone. L'allarme dell'ONU sui cambiamenti climatici, mai così tanta anidride carbonica nell'atmosfera. Presidenziali americani a 2 settimane dal voto, Hillary Clinton resta salda in testa nei sondaggi. Dopo altri giornali, anche il New Yorker si schiera con lei. La paziente morta in ospedale a Catania, nessuna irregolarità per gli ispettori del ministero. La donna scomparsa nell'Aretino è stato condannato a 27 anni per omicidio e soppressione di cadavere. Il frate Gratien Alabi, il religioso accusato di aver ucciso e fatto sparire Guerrina Piscaglia il 1 maggio 2014. Calcio, caos Inter, De Boer resta ma è appeso un filo, e per il pallone d'oro tra i candidati c'è anche Buffon. Partiamo quindi dalla manovra economica e dall'attesa lettera, come vi dicevo, da parte della Commissione europea con i rilievi sulla legge di bilancio. Il Presidente del Consiglio stasera al TG5 ha detto, poi lo sentiremo, l'Italia sta rispettando le regole che prevedono le clausole eccezionali in caso di eventi eccezionali. Dunque la manovra non cambia per i rilievi dell'Unione europea. Un braccio di ferro quindi questo che prosegue tra il governo italiano e l'Unione europea, su cui torneremo a parlare tra poco qui a Effetto Notte. Migranti, oggi all'alba a Calais in Francia è cominciato lo sgombero della cosiddetta giungla, la più grande bidonville d'Europa, dove sono ammassati nelle tende migliaia di migranti che aspettavano di passare, questo è il loro obiettivo, di passare in Gran Bretagna. Il presidente François Hollande però ha deciso di smantellare la giungla offrendo una soluzione di rialloggio ai suoi abitanti. E più tardi, come vi dicevo, ci collegheremo con la Francia per sentire com'è andata questa prima giornata di evacuazione. Per quanto riguarda l'Italia, il 2016 è stato un anno record per gli arrivi di migranti. Sono 153.450 gli immigrati arrivati sulle nostre coste dall'inizio dell'anno, quasi 14.000 in più rispetto allo stesso periodo del 2015 e quasi 1.500 in più rispetto agli stessi mesi del 2014, che sino ad ora era stato l'anno record in termini di arrivi. Gli sbarchi hanno avuto un'impennata negli ultimi giorni, solo oggi in Sicilia e Calabria sono arrivate 4.300 persone. I numeri da soli, pubblicati dal Ministero dell'Interno, dicono ben poco dell'orrore che i viaggi in mare dall'Africa all'Europa portano con sé. Oggi a Palermo, con 1.099 migranti, sono sbarcate 17 salme, tra cui quelle di una piccola di 8 anni, un neonato e un altro bambino. Tutti, stando alle prime analisi del medico legale, sarebbero stati vittime di pestaggi da parte dei miliziani libici, probabilmente durante le operazioni di trasferimento dalla terraferma al barcone, dunque sarebbero morti ancor prima di partire. Ma l'emergenza non riguarda solo l'Italia. In Grecia, a Lesbo, ancora fiamme nel campo di Moria, ad appiccarle decine di migranti in protesta per i ritardi con cui vengono gestite le domande di asilo. Stando a quanto si legge sui social, dunque si tratta di notizie non confermate, a Moria, dove sono stipati oltre 5.000 migranti a fronte di 3.500 posti, mancherebbe persino il cibo. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso parliamo dell'allarme dell'Agenzia dell'ONU per il clima. Dopo il record della temperatura, che farà del 2016 l'anno più caldo di sempre, arriva un nuovo allarme sul fronte dei cambiamenti climatici. La concentrazione di anidride carbonica ha raggiunto la soglia di 400 parti per milione e più tardi, qui effetto notte, sentiremo un esperto di clima per capire la portata di questo allarme con le possibili conseguenze e anche le possibili eventuali soluzioni. Cambiamo tema. A Malta questa mattina un piccolo aereo si è schiantato al suolo. Dopo il decollo, anche se è stata esclusa un'esplosione a bordo, resta il mistero sui passeggeri e sulla loro missione segreta. Il bimotore decolla, poi si piega, quindi si schianta in una nuvola di fiamme e fumo. È a questo punto che l'incidente aereo di Malta, ripreso da un'auto e poi da cellulari di altri passeggeri, diventa una spy story internazionale nel momento in cui si cerca di dare un'identità alle 5 vittime. Non ufficiali Frontex, non doganieri, due ipotesi circolate e poi smentite, ma personale del Ministero della Difesa francese, conferma alla fine Parigi. Dunque tre agenti segreti e due contractor della società CAE, proprietaria del bimotore, con sede in Lussemburgo. Il volo era registrato come locale, ma in che tipo di missione erano impegnati gli 007 dell'Eliseo? La versione ufficiale di Malta parla di ricognizione lungo le rotte del traffico di droghe e di esseri umani, ma c'è un'altra lettura che avanza, un viaggio verso Misurata per portare uomini di intelligence. Unità speciali francesi sono infatti già schierate in Libia per dare aiuto alle milizie locali nella lotta all'ISIS, come fanno anche Stati Uniti e Italia, e questo aereo precipitato potrebbe essere come uno di quelli noleggiati che decollano da Sicilia o Creta per pattugliare quest'area calda del Mediterraneo. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. La politica italiana, oggi è arrivato in aula il disegno di legge dei 5 Stelle sul dimezzamento dello stipendio dei parlamentari. Intervengono uno ad uno i deputati 5 Stelle nell'aula della Camera per presentare il disegno di legge che dimezza l'indennità dei parlamentari e promette risparmi fino a 87 milioni di euro. La proposta prevede di tagliare del 50% la parte fissa e ridurre la diaria. Così Luigi Di Maio. Renzi dice che questa legge non funziona. Vieni in aula e di al tuo partito di votare sì, perché il Movimento 5 Stelle questo trattamento lo adotta da 3 anni e mezzo in Parlamento e ha fatto risparmiare 18 milioni di euro. Beppe Grillo è già a Roma ed incontra Roberta Lombardi, autrice del disegno di legge, chiede al PD di votare con loro, ma è una mossa per mettere in imbarazzo Matteo Renzi durante la campagna referendaria. Per il Premier invece bisognerebbe ridurre l'indennità in base alle presenze in aula, mentre Renato Brunetta di Forza Italia provoca. Lo stipendio dovrebbe essere quello che si guadagnava prima di entrare in Parlamento. Reddito di cittadinanza per chi era disoccupato. Elisabetta Fiorito, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Intanto la Cassazione ha dichiarato inammissibile l'istanza presentata dal Codacons all'Ufficio Centrale per il Referendum, che chiedeva la correzione del quesito referendario relativo alle riforme costituzionali. E oggi è la giornata per la ricerca sul cancro, è intervenuto il capo dello Stato Mattarella. Sentiamo l'affondo più duro che è stato sui vaccini. Sconsiderato chi critica i vaccini, al Quirinale si celebra la giornata nazionale per la ricerca sul cancro e il Presidente della Repubblica Mattarella affronta un tema delicato, quello del calo delle vaccinazioni, per effetto, dice, di campagne sconsiderate e lancia un forte richiamo. Occorre contrastare con decisione gravi involuzioni, come accade ad esempio quando vengono messe in discussione vaccinazioni essenziali. Stesso contrasto, dice Mattarella, quando si negano le cure a figli o familiari o quando ci si affida a guaritori o tecniche scientificamente inutili. Sulla salute pubblica occorre essere rigorosi e usare fermezza quando la scelta tocca così direttamente la vita di un bambino o di qualunque persona. Mattarella sottolinea l'importanza della prevenzione, della diagnosi precoce, dell'informazione corretta e giudica positivamente la scelta nella legge di bilancio di destinare un fondo ai farmaci innovativi per la cura del cancro. Infine invita tutti a garantire il diritto alla salute senza discriminazione tra malati. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Ora parliamo di MPS. Il Consiglio di amministrazione ha approvato all'unanimità il piano industriale della banca, lo ha detto un consigliere lasciando la riunione. È ancora in corso a Milano il titolo dell'Istituto Senese, in 5 sedute ha raddoppiato il suo valore. Non ci poteva essere accoglienza migliore per il nuovo piano industriale del Monte dei Paschi. A scatola chiusa, cioè ancora prima di conoscerne i contenuti, oggi il titolo ha guadagnato il 28,3%, portandosi a 0,34 euro. In una settimana, cioè da lunedì scorso, il titolo ha raddoppiato il suo valore e la capitalizzazione è tornata sopra il miliardo. Soprattutto, nelle ultime 5 sedute, i volumi degli scambi sono stati enormi, con oltre la metà del capitale passato di mano. Segno inequivocabile di grande fermento, movimenti da trader probabilmente più che da investitori, ma intanto chi aveva speculato al ribasso si sta ora riposizionando sul titolo. Mentre a Piazza Affari si comprava, a pochi isolati di distanza nella sede milanese del Monte, a 2 passi dalla scala, il CDA esaminava il piano industriale del nuovo CEO Marco Morelli e soprattutto le modalità dell'aumento di capitale da 5 miliardi, che consentirà alla banca di cartolarizzare 27 miliardi di sofferenze. A minuti se ne conosceranno i dettagli, da domani il responso della borsa, che finalmente potrà decidere come muoversi, cifre alla mano. Marco Ferrando, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E adesso all'estero, con le presidenziali americane. Hillary Clinton resta salda in testa 2 settimane dal voto, con i sondaggi largamente a suo favore, nonché il calcolo delle probabilità di una sua vittoria che adesso supererebbe il 90%. Così, a fronte dell'ultimo sondaggio condotto da ABC e che le dà 12 punti di vantaggio, la media di diversi rilevamenti calcolata da Real Clear Politics la vede in testa con il 48% contro il 41,9% del rivale repubblicano Trump. Hillary raccoglie anche l'endorsement, cioè lo schieramento a suo favore, del New Yorker, uno dei periodici più autorevoli negli Stati Uniti, che addirittura scrive: la sua elezione avrebbe un'importanza storica immensa. E siamo di nuovo in Italia, terremoto di Amatrice, a 2 mesi esatti dal sisma, la terra torna a tremare, nuove scosse nella notte. Ancora uno sciame sismico che richiama la paura e il trauma che hanno scosso la popolazione di Amatrice il 24 agosto scorso. Fortunatamente non ci sono stati nuovi crolli e nessun ferito, ma è sufficiente per ripiombare nei ricordi, come spiega Gabriele Tosi, capo missione del Corpo Italiano dell'Ordine di Malta, che fin dai primi istanti presta soccorso materiale psicologico ad Amatrice, che oramai è deserta. Spaventa, mette in allerta la popolazione. Ad Amatrice comune la popolazione praticamente non c'è più. Si è spostata infatti sulle coste nelle 69 frazioni. Mancano ancora beni e strutture di prima necessità. Hanno paura di essere abbandonati, di essere dimenticati. Quello che il Corpo Italiano di Soccorso dell'Ordine di Malta fa è uscire con 5 equipaggi tutte le mattine, tutti i pomeriggi, e distribuiamo 300 kg al giorno di viveri in scatola: riso, pasta, farina, acqua, latte. Chiedono di avere senso strutture per accudire il bestiame, perché poi molti di questi animali sono in questo momento liberi nei prati e adesso tra un po' arriva la neve. Sono soprattutto piccoli imprenditori agricoli che vedono arrivare l'inverno. Una produttrice di patate e di latte ci dice: le mie bestie sono nel fango, quando le mungo o sono perfettamente pulite e quindi sono ricoverate nella stalla, il mio latte può essere classificato come prima qualità. Nel momento in cui il mio bestiame vive nel fango, ho una perdita immensa in termini anche di guadagno. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore. La cronaca: la donna scomparsa nell'Aretino è stato condannato a 27 anni per omicidio e soppressione di cadavere. Il frate Gratien Alabi, il religioso accusato di aver ucciso e fatto sparire Guerrina Piscaglia il 1 maggio 2014 a Caraffaello, una località appunto dell'Appennino Aretino al confine con Emilia Romagna e Marche. La Corte d'Assise d'Arezzo ha così accolto, con questa condanna a 27 anni, la quantificazione della pena richiesta dal PM. Il religioso di origine africana era presente in aula ed è rimasto impietrito alla lettura della sentenza. La professoressa uccisa nella Bergamasca appartiene a Gianna Del Gaudio, appunto la professoressa in pensione uccisa nella sua casa a Seriate, nel Bergamasco, il 26 agosto. Il sangue trovato sul coltello rinvenuto a qualche centinaio di metri dall'abitazione. Però sui guanti trovati insieme all'arma non c'è il DNA del marito Antonio Tizzani, che per il momento è l'unico indagato, né dei suoi figli. C'è invece una traccia di DNA ignoto, sono i risultati questi degli esami dei RIS sul giallo di Seriate. E poi notizie anche dal caso della donna morta a Catania dopo un aborto spontaneo. Gli ispettori del Ministero della Sanità inviati a Catania hanno presentato le loro conclusioni. Nell'assistenza Valentina Milluzzo, la 34enne morta all'ospedale Cannizzaro il 16 ottobre scorso dopo l'aborto di 2 gemelli, non si evidenziano elementi correlabili all'obiezione di coscienza. Si è trattato, dicono, di un aborto iniziato spontaneamente, inarrestabile, trattato in emergenza. Spazio, e non si sa se questa notizia sia conseguenziale a questo nuovo allarme sul clima, entra nel vivo la caccia alla ricerca di un vero gemello della Terra, ossia di un pianeta roccioso e abitabile, possibilmente anche vicino a noi. Per gli astronomi riuniti oggi ad Aosta è solo questione di tempo di trovare questo pianeta gemello della Terra. 10 o al massimo 20 anni ci vorranno, e quanto emerso nel convegno sui sistemi planetari GASP, una 3 giorni in programma fino al 26 ottobre, che propone di fare il punto sui dati più recenti relativi ai pianeti esterni al sistema solare. Per chiudere il calcio, Frank de Boer potrebbe rimanere allenatore dell'Inter fino a mercoledì, quando i nerazzurri affronteranno il Torino, una sfida decisiva, anche se le chance che de Boer possa proseguire la sua stagione sono veramente poche. Ne parleremo, così parleremo anche del pallone d'oro, tra i candidati c'è anche Gigi Buffon. Adesso, prima di lasciarci per la viabilità, uno sguardo veloce ai vostri messaggi che arrivano sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666. Per esempio, dice Enzo Davarese: ciao Roberta, Alfano dice che dopo l'arrivo della lettera non faranno niente, dice come al solito. E poi invece sulla proposta del Movimento 5 Stelle di dimezzare gli stipendi dei parlamentari, Domenico scrive: non solo sono d'accordo a ridurre l'indennità parlamentare, ma rilancio con il proporre che i rimborsi di deputati e senatori non siano forfettari, bensì basati sulle spese effettive sostenute e certificate. Antonio dice: no, non sono d'accordo, o meglio, secondo me non è la strada giusta. Il pagare bene i parlamentari deriva dall'evitare che possano essere corrotti, come abbiamo visto non ha funzionato. Che fare? Rivedere i benefit di cui beneficiano, poi legare il loro stipendio all'effettivo lavoro svolto, ossia presenza in aula, partecipazione alle votazioni, disegni di legge, eccetera eccetera. Ci sentiamo tra poco. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci subito insieme, avete sentito quindi il riassunto della giornata. Adesso, come sempre, dopo la viabilità, cominciamo a entrare nel cuore di alcuni temi in particolare. Roberta Giordano sempre con voi, vi ricordo tra pochissimo le notizie più importanti, i titoli in primo piano, se non avete acceso puntualmente alle 21. Intanto arrivano sempre i vostri messaggi attraverso due canali privilegiati per voi, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, oppure il numero per WhatsApp ed SMS, che è 349-238-6666. Ancora messaggi sulla proposta del Movimento 5 Stelle di ridurre, di dimezzare gli stipendi dei parlamentari. Massimiliano dice: io pagherei i politici in base a presenza e produttività, e ovviamente finito il mandato o vitalizio e tornare a lavorare, o in pensione se raggiunta l'età pensionabile. Emiliana scrive: la Guardia di Finanza avvia un'indagine su questa gente che difende a spada tratta gli stipendi dei parlamentari. Continuate intanto, io vi ricordo appunto le notizie più importanti. La manovra e l'Unione Europea. Renzi dice: la lettera non cambia niente. Del Rio, il ministro Del Rio: troppo attenti ai decimali in Europa. Mentre il presidente di Confindustria Boccia dice: ora in Europa ci sia più coraggio. E poi sgomberata la giungla, cosiddetta giungla di Calais in Francia, la bidonville della vergogna. E per quanto riguarda l'Italia, quest'anno arrivo record di migranti, 153.000, superato quindi il record del 2014. Allarme dell'ONU sul clima: nel 2015 raggiunti livelli record di CO2, di anidride carbonica, ancora di più sarà quest'anno il livello. E poi alla Camera è arrivato il disegno di legge taglia stipendi. Grillo dice: Renzi, un egoista, poteva far votare i suoi a favore di questo disegno di legge. Poi lo stop di Mattarella, il Presidente della Repubblica, scusate, sui vaccini, sconsiderato, dice chi li critica. Ebbene, il fondo per i farmaci sul cancro, bisogna investire sulla ricerca. E poi la taglia dell'ISIS sulla vita, $500 per fuggire dall'Iraq, dalle città assediate. I bambini non possono, vengono costretti a diventare soldati. La donna morta di parto a Catania, per gli ispettori le cure sono state adeguate. E poi quest'altra notizia di cronaca, la donna scomparsa nell'Aretino nel 2014, frate condannato a 27 anni. Se ci arriverà la letterina, faremo come ha fatto, rispetto a una serie di rilievi, faremo come hanno fatto altri paesi, cioè la Germania, la Spagna, l'Ungheria e anche altri paesi ancora, la Francia, e cioè faremo niente, come non hanno fatto niente gli altri. Quando l'Europa gli ha scritto, niente faremo noi. L'ho fatto sentire all'inizio, no? Il ministro Alfano, a proposito della legge di stabilità, che è al centro del dibattito politico interno in Italia, ma anche tra governo italiano e Unione Europea. Si parla da giorni dell'arrivo di questa famigerata lettera della Commissione Europea indirizzata all'Italia con le richieste di chiarimento su vari punti della legge di bilancio. E non dico che la si accolga come con la stessa serenità, con lo stesso entusiasmo con cui si riceve una lettera da Equitalia, che tra l'altro dovrebbe essere in liquidazione, ma più o meno. Vincenzo Miglietta in diretta da Roma. Ciao Vincenzo. Sì, buonasera ai nostri ascoltatori. Certamente il modo con il quale il governo accoglierà questa lettera non è dei migliori. Ha fatto benissimo a far ascoltare Alfano, il ministro dell'Interno, che è sostanzialmente in linea con quanto già detto e ripetuto questa sera dal presidente del Consiglio. E allora Renzi, lo facciamo sentire, Vincenzo, visto che lo citi, lo farei sentire subito al TG5 che cosa ha detto Renzi. Io non mi faccio dire da qualche tecnocrate europeo che non si deve mettere a posto la scuola perché c'è una regola sulla stabilità. La stabilità dei nostri figli vale di più della stabilità di regole europee in un paese come il nostro, me lo lasci dire, che ha avuto 3 terremoti in 7 anni. Vogliamo continuare a piangere dopo o possiamo finalmente fare una grande opera di prevenzione? Io non ho dubbi su questo, quindi la manovra non cambia. In più c'è un altro passaggio, che è quello sull'immigrazione, e via. Perché Vincenzo Miglietta, i rilievi della Commissione, fra le varie cose, dovrebbero riguardare, pare, troppe misure una tantum previste per far quadrare i conti e appunto questo piano Casa Italia per gli incentivi per la messa in sicurezza antisismica degli edifici. È così perché da Bruxelles innanzitutto diciamo che questa lettera, Roberta, ancora non è arrivata, difficilmente arriverà entro la mezzanotte, a questo punto domani, la si aspetta per domani, ma ecco, giustamente tu ricordavi i rilievi di Bruxelles dovrebbero concentrarsi dal lato delle entrate sulle troppe una tantum, quindi si dà per scontato, Palazzo Chigi dà per scontato che vi siano delle risorse, ma non da delle misure strutturali, ma da degli interventi che vengono fatti magari quest'anno e non il prossimo. Per quanto riguarda le uscite, vanno bene le circostanze eccezionali per quanto riguarda i migranti e la ricostruzione specifica di Amatrice e degli altri paesi colpiti dal terremoto. Non andrebbe bene invece il piano nazionale antisismico, che viene visto da Bruxelles come un intervento più strutturale, quindi più spalmato negli anni, quindi non rientrerebbe nelle cosiddette circostanze eccezionali. Ricordiamo che c'è comunque cautela da parte di Bruxelles nell'inviare questa lettera a Roma, proprio perché si considera anche il momento storico che sta vivendo il nostro paese. Ad un mese dal referendum c'è la palese volontà di non indebolire il governo Renzi, perché comunque si è dimostrato molto solidale con Bruxelles rispetto ad altri paesi, inutile ricordarli, tipo l'Ungheria. Però comunque questi rilievi arriveranno, come arriveranno ad altri 5-6 paesi europei. Infatti non riguarda solo l'Italia, vedremo come procede e ci aggiorneremo domani, quindi se arriva questa benedetta lettera. Grazie Vincenzo Miglietta. Grazie. Ciao Vincenzo. Ora invece trasferiamoci in Francia, perché oggi è iniziato lo sgombero della cosiddetta giungla di Calais, cioè il campo profughi in Francia, che è la più grande bidonville d'Europa. Nel punto proprio si trova, che si affaccia dalla Francia verso sullo stretto della Manica e che guarda alla costa britannica. L'evacuazione di questo accampamento, composto da baracche improvvisate, è stato molto criticato nel corso dei mesi, sia dalle associazioni umanitarie sia dalle organizzazioni della destra. Ci sono state tante promesse, tanti rinvii, tanti veleni. Insomma, oggi è cominciata l'evacuazione di migliaia di migranti, perché il presidente della Francia, il presidente francese Hollande, ha deciso che questo campo, come è stato chiamato un campo della vergogna, deve essere smantellato e i migranti devono essere rialloggiati. Ci colleghiamo allora con Leonardo Martinelli dalla Francia. Leonardo, buonasera. Buonasera. Com'è andata questa prima giornata? Mi pare che non ci siano stati scontri o particolari tensioni, iniziata dall'alba, no? Sì, è andato tutto sommato bene. Ti sto parlando proprio da Calais lo sgombero è iniziato stamani alle 8, è stato organizzato in maniera molto accurata. Stasera proprio la prefettura e quindi anche il Ministero degli Interni hanno annunciato che sono stati sono saliti su dei pullman in direzione di centri di accoglienza in tutta la Francia, per la precisione 1918 persone, quindi quasi 2000 persone. Poi sono stati anche individuati 400 minorenni, ricordo che in questo campo ci sono 1300 minorenni da soli, cioè che viaggiano da soli senza famiglia, spesso anche dei bambini, e questi 400 invece non sono stati messi nei pullman, ma tenuti qui a Calais, verranno tenuti per qualche giorno per decidere cosa fare, se tenerli in Francia o se finalmente l'Inghilterra li accoglierà, perché molti di loro in realtà hanno della famiglia in Inghilterra, proprio al di là della Manica. Anche se la questione è complessa, Leonardo, come ricordavi tu, l'obiettivo di tutti questi migranti che sono lì da parecchi mesi, no, in questa tendopoli, era quello soprattutto di raggiungere la Gran Bretagna. La Gran Bretagna, sappiamo che tra Brexit e altre sue posizioni, ha detto che in realtà di migranti non ne vuole più. Però mi pare che possa valere per chi, dicevi tu, può dimostrare di avere una famiglia in Gran Bretagna da raggiungere? Ma in realtà l'Inghilterra sta diventando molto rigida anche su quello. Però appunto il grosso problema, a Calais ci sono, l'ultimo censimento dava 10.000 persone a settembre, nel momento in cui lo sgombero è stato annunciato il 2 settembre scorso, da allora almeno 2.000 persone già sono andate via, perché probabilmente non volevano andare in questi centri di accoglienza creati dalla Francia, quindi rimarrebbero 8.000 persone, oggi quasi 2.000 se ne sono andati. In questa massa ci sono appunto questi 1.300 minorenni, che sono veramente una vergogna, cioè voi vi dovete immaginare che questi minorenni vivono per lo più l'80% nelle tende, perché a Calais ci sono solo tende, qualche catapecchia, poi ci sono dei container per 1.500 persone su 10.000, quindi solo per una piccola parte. Quindi dei minorenni, 13 anni, 14 anni, che vivono con adulti, poi con un tempo gelido come c'è qui a Calais, e soprattutto nelle tende, una promiscuità incredibile. Quindi questo è diciamo veramente un dramma. Ed sono è una consumate vergogna. Anche delle violenze, tra l'altro, no? Mi sembra. Certamente, anche se insomma spesso questi ragazzi non ne vogliono parlare, però c'è un centro proprio di Médecins Sans Frontières, di Medici Senza Frontiere, che è lì proprio per accogliere questi minorenni durante la giornata. Io un'altra volta sono venuto qui a Calais, ho parlato con lo psicologo e mi aveva detto appunto che ci sono delle violenze e che lui la sera alle 17 doveva buttare tutti fuori e ovviamente lo faceva con il cuore in mano, pensando a questi ragazzi che poi andavano a dormire nelle tende con degli adulti. Quello dei minorenni è un grosso problema da risolvere, perché in realtà la scorsa settimana l'Inghilterra ne ha già accolti 200 e la Francia vorrebbe che ne accogliesse ancora altri 400, però Londra nicchia. È una cosa anche abbastanza penosa, se si vuole, perché questi stanno negoziando sulla testa di bambini e ragazzi. Poi sono 400, cioè non è un numero pazzesco. Grazie Leonardo Martinelli. Non è un numero pazzesco, infatti. Grazie Leonardo da Calais, ciao. Ciao. Grazie Leonardo, a voi, ciao, buona continuazione. Ciao, intanto, tra l'altro, il ministro dell'interno Cazeneuve oggi ha detto: oggi dimostriamo che la Francia è un paese che sa trattare situazioni particolarmente difficili, perché tra l'altro bisogna capire che questa è una sfida piuttosto importante per Hollande, per il presidente francese, visto che a pochi mesi dalla corsa per l'Eliseo del 2017, delle elezioni presidenziali. Chiudiamo qui questo tema, ci prendiamo una piccola pausa mentre voi continuate con i vostri messaggi, così poi affronteremo altri argomenti. Ancora qualche vostro scritto a proposito sempre della proposta in discussione alla Camera del Movimento 5 Stelle sul dimezzamento degli stipendi dei parlamentari. Ilaria scrive: non credo che sia la via giusta, si suppone che un parlamentare che fa il suo dovere rinunci al lavoro che aveva precedentemente. E dice Di Maio: non docet, ma trovo scandalosi tutti gli altri privilegi legati alla carica, rimborsi, spese spropositate, gratuità varie, vitalizi, eccetera eccetera. Dopo. I tassi a zero e la volatilità di borsa, i rischi e le nuove opportunità di investimento. Cosa cercano davvero i risparmiatori? Il 18 novembre alle 18 partecipa a Investire Informati Live, l'evento di Radio 24 che si terrà presso la sede del Sole 24 Ore in via Monterosa a Milano. Troverai tutte le risposte insieme a Deborah Rosciani e agli esperti della rubrica Investire Informati. Prenota la tua partecipazione su radio24.it. 18 novembre, ore 18. Più informazione, meno sorprese. Effetto Notte. Le notizie in 60 minuti. E se state ascoltando Effetto Notte siete al posto giusto, nel momento giusto, anche con la giusta conduttrice Roberta Giordano con voi. I vostri messaggi continuano ad arrivare alla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al numero per WhatsApp ed SMS che è 349-238-6666. Avete sentito quindi all'inizio, come sempre, la ricostruzione della giornata e poi abbiamo parlato della lettera attesa dal governo italiano da parte dell'Unione Europea per i rilievi sulla manovra economica. Abbiamo sentito Alfano che dice in realtà se arriva la letterina non ne faremo niente come fanno anche gli altri paesi e Renzi ha detto la nostra manovra non si cambia, va bene così. Poi ci siamo collegati con Calais in Francia dove oggi è iniziata l'evacuazione della tendopoli di migranti che dovranno essere ricollocati in vari centri di accoglienza in Francia e adesso invece tra pochissimo parleremo di questo nuovo allarme che riguarda il clima, un allarme ancora più forte e preoccupante di quelli precedenti. Intanto voi continuate, vi dicevo appunto, con le vostre osservazioni, i vostri rilievi. C'è per esempio, a proposito della proposta del Movimento 5 Stelle, oggi discussa, cominciata a essere discussa in aula sul dimezzamento degli stipendi ai parlamentari, Marco da Bergamo scrive: quella di Brunetta è stata presentata come una provocazione, in realtà sarebbe opportuno che un parlamentare percepisse in base a quanto ha dichiarato negli ultimi 3 o 5 anni. Poi Luciano dice: retoricamente dico sì, sono d'accordo con questa proposta. Susanna: come non esserlo. Daniele dice: assolutamente sì. Giampiero: certo sì. Emanuele: sicuramente sì. Poi Marco dice: il PD a casa, Movimento 5 Stelle al governo, siamo così, siamo sicuri che non rubano. Giuliana scrive: fatta la legge si trova l'inganno, quindi poco fiduciosa. Piero dice: per me è pura demagogia. Mentre Elena scrive: sì, tutta la vita. Allora, tra pochissimo affronteremo un altro tema, vi dicevo questo dell'allarme sul clima, intanto vi ricordo le notizie principali. Manovra economica, in arrivo la lettera della Commissione europea con i rilievi sulla legge di bilancio. Quando arriverà, sottolinea il ministro Alfano, non faremo niente, proprio come gli altri paesi. Migranti a Calais in Francia è cominciato lo sgombero della giungla e per quanto riguarda l'Italia il 2016 è stato un anno record, sono arrivate già oltre 150.000 persone. L'allarme dell'ONU sui cambiamenti climatici, ne parleremo a breve. Presidenziali americani, a 2 settimane dal voto Hillary Clinton resta salda in testa nei sondaggi. Dopo altri giornali anche il New Yorker si schiera con lei. La paziente è morta in ospedale a Catania, nessuna irregolarità per gli ispettori del ministero. La donna scomparsa nell'Aretino è stato condannato a 27 anni per omicidio e soppressione di cadavere. Il frate di origine africana accusato di aver ucciso e fatto sparire Guerrina Piscaglia il 1 maggio 2014. Calcio, caos Inter, De Boer resta l'allenatore ma è appeso un filo e per il pallone d'oro tra i candidati c'è anche Buffon. E adesso occupiamoci di clima, che sapete è uno di quei temi ricorrenti per il quale ci si allarma di tanto in tanto e poi dopo ci si lascia scivolare un po' nelle nostre coscienze, no? Questo allarme siamo abituati a farlo da tanti anni, ma oggi arriva però un allarme serio, tutti sono seri, questo in particolare parla di record ormai anche strasuperati. Questo allarme è dell'Organizzazione Meteorologica Mondiale delle Nazioni Unite, un'agenzia delle Nazioni Unite, l'OMM, che sottolinea che il 2015 segna l'inizio addirittura di una nuova era della realtà climatica. Quindi l'anno scorso ha dato il via a questa nuova era della realtà climatica perché, dice l'OMM, per la prima volta nel 2015 la concentrazione media di anidride carbonica, la famosa CO2, nell'atmosfera ha raggiunto il traguardo di 400 parti per milione e nel 2016 sta registrando nuovi record. Quindi il 2015 è stato il primo anno nella storia dell'umanità in cui la presenza di anidride carbonica in atmosfera ha superato stabilmente la soglia di 400 parti per milione. L'OMM precisa che le concentrazioni di CO2 resteranno al di sopra di questo livello già record per l'intero 2016 e non scenderanno sotto tale livello per molte generazioni. Ora voglio coinvolgere su questo tema così importante, così delicato, Luca Lombroso, che è meteorologo dell'Osservatorio Geofisico dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia, esperto di clima, divulgatore ambientale. Buonasera Lombroso. Buonasera, buonasera. Intanto ci spieghi questa storia del, non so se è troppo tecnica, 400 parti per milione di CO2, mi pare, si parla di record, di una nuova realtà climatica, quindi mi pare già qualcosa di grave, al di là di capirci. Sì, effettivamente è abbastanza tecnica da spiegare, diciamo in modo molto semplice, CO2 è un gas minore per quantità ma importante per qualità, questo uso in modo divulgativo, è presente in natura in giusta dose, fino all'era preindustriale non aveva superato 290, un'unità misura un po' particolare, non sto a spiegare che cos'è, in tutta la storia dell'evoluzione umana, le oscillazioni sono state fra 190 e 290 di questa sua unità che parti per milione. Dall'inizio dell'era industriale ad oggi, appunto, a causa dell'uso dei combustibili fossili, è cresciuta sempre di più, cresciuta ancora di più negli ultimi anni, e ora ha superato questo valore, diciamo, un po' psicologico, lo usavo anch'io questo termine, soglia psicologica, anche in un mio libro, ma che ci dà comunque un segnale che siamo oltre un parametro di riferimento. Addirittura per la scienza non dovevamo superare 3,50, il valore che l'Unione Europea ha adottato ancora nel 2007 è 450 parti per milione, e comunque probabilmente lo raggiungeremo nel giro di una ventina d'anni. Diciamo Lombroso, così. Allora, intanto le cause, probabilmente perché poi negli ultimi anni ci sono stati anche lo sviluppo enorme dei paesi cosiddetti emergenti, però qualcuno potrebbe chiedersi: ma non è un po' che cerchiamo di fare qualcosa? In realtà poco, molto di recente, però i risultati chiaramente, se anche andassero nella giusta direzione, non si possono vedere in breve tempo. Beh, la causa, che sia una causa nell'uso dei combustibili fossili, è fuori di dubbio. Li vogliamo raccontare quali sono i combustibili fossili, per chi non si ricordasse? Petrolio, carbone e anche gas. E poi in parte contribuisce anche la deforestazione a questo processo, gli allevamenti, per altri gas serra, l'agricoltura anche. Diciamo che la maggior parte dell'aumento storicamente è stata causata dal mondo, virgolette, occidentale. Negli ultimi anni i nuovi, virgolette, inquinatori, se vogliamo, la buona notizia è che con l'accordo di Parigi tutti i paesi del mondo, in una forma o nell'altra, chi più chi meno, hanno assunto degli impegni adottando una soglia che non è nella CO2 ma nel valore di temperatura che non dovrebbe essere superato, cioè non dovremmo superare, evitare di eccedere i 2 gradi di massimo riscaldamento globale rispetto all'era preindustriale, quindi 1-1,2, ormai c'è già stato nel 2016 anno più caldo, quindi è una sfida molto forte che poi adesso la prossima conferenza di Marrakesh dovrà essere via via messa più in pratica, e non è affatto facile. Per spiegarci proprio la portata degli effetti, delle conseguenze, Lombroso, ci dice 2-3 conseguenze che ci potrebbero essere se appunto si supera questo limite dei 2 gradi centigradi? Guardiamo i nostri territori, il problema principale più serio da affrontare sarà, ed è già, quello dell'ondata di caldo e della durata sempre più lunga delle estati, nonostante le apparenze. Secondariamente, ma non tanto secondariamente, l'aumento degli eventi estremi, piogge intense, temporali, impropriamente dette bombe d'acqua, si chiamano nubifragi, e anche innalzamento del livello del mare. Tanto per dire, c'è uno scenario, è un po' pessimistico, cioè è poco probabile che si verifichi, ma non impossibile, che in caso di riscaldamento globale oltre i 4 gradi potrebbe vedere il mare arrivare addirittura a Ferrara, Ravenna, quasi a Bologna. Bologna o Ravenna. Lombroso, il fatto è che intanto si pensa sempre, no, sotto sotto, che sono cambiamenti a di là da venire, per cui noi saremo già morti, no, quando si parla del presente, e forse anche per questo che da una parte si cerca di porvi rimedio, dall'altra però non sono mai forse presi fino in fondo seriamente questi allarmi. In realtà il problema non è delle future generazioni, ma anche delle attuali giovani generazioni, e non solo. Non a caso Barack Obama ha aperto COP21 dicendo: siamo la prima generazione a subire gli effetti e l'ultima a poter fare qualcosa per limitare i cambiamenti climatici. Il che ci dovrebbe condurre a un vero e proprio cambiamento anche di modello di sviluppo, di base dell'economia globale. Si parla di decarbonizzazione, quindi andare in uno scenario, in un uso di un'economia, una società che non fa più uso di combustibili fossili, o che ne fa in una minima dose inevitabile, compensata però da aumento delle forestazioni, perché il problema è questo. Diciamo, senza rivoluzionare completamente le nostre vite, che la vedo un po' complicata, però almeno questa della decarbonizzazione mi sembra un obiettivo possibile. Intanto vediamo dove andiamo e quanto le nostre coscienze ci spingeranno davvero a cambiare i nostri modelli di sviluppo. Intanto grazie Luca Lombroso. Grazie e buona serata. Intanto vedevo a questo proposito un messaggio di Fulk, si firma: vogliamo dire che c'è un problema di sovrapproduzione di carne umana altamente inquinante. Carne umana altamente inquinante. Poi c'è un ascoltatore, questi sono sempre i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte oppure al 349-238-6666, che dice: cara Roberta, hai notizie di MPS? Ma scusa, Mauro, si firma Mauro, hai perso un pezzo di trasmissione, c'era anche un lungo servizio che raccontava un po' la giornata di oggi, ma ti ricordo in sintesi che MPS ha messo a segno oggi un rialzo record in borsa nel giorno in cui il Consiglio di Amministrazione ha dato il via libera al piano industriale targato Morelli, il nuovo amministratore delegato, e alla trimestrale, oltre all'analisi dei conti nei 9 mesi, il titolo ha guadagnato a fine seduta il 28,28%. Ecco in sintesi cosa è successo oggi per quanto riguarda MPS. Mentre i vostri messaggi ancora per quanto riguarda la riduzione degli stipendi dei parlamentari, dice questo ascoltatore, ascoltatrice, non si firma, mettete anche un nome d'arte: per me il problema più che la riduzione degli stipendi è che quando sbagliano nessuno paga, se le condizioni peggiorano i soldi si volatilizzano, è sempre colpa di qualcun altro, politica senza onore, altro che stipendi, quelli vorrebbero poi, verrebbero poi, dice. Bene, direi di aggiornare chi sta viaggiando e ritorniamo poi insieme. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Notizie che vi ricordo in pochi secondi, sempre Roberta Giordano con voi. Andrea scrive: Del Rio dice che i decimali sono che si arroccano troppo in Europa sui decimali, roba da poco. Invece Andrea sottolinea: i decimali su un bilancio di Stato sono vagonate di euro, con i decimali l'Italia ha edificato il suo monumentale deficit. Le notizie più importanti appunto riguardano la manovra e l'Unione Europea, che dovrebbe arrivare questa lettera con i rilievi della Commissione Europea sulla nostra manovra, sulla legge di bilancio. Renzi dice la lettera non cambia niente e Del Rio appunto dice sono troppo attenti ai decimali, mentre il presidente di Confindustria: ora ci vuole più coraggio in Europa. È stata sgomberata in Francia la cosiddetta giungla di Calais, la bidonville più grande d'Europa, la bidonville della vergogna. 153.000 arrivi per quanto riguarda invece quest'anno l'Italia, è stato superato il record del 2014 dei migranti. Allarme ONU sul clima, ne abbiamo appena parlato: nel 2015 raggiunti livelli record di CO2, di anidride carbonica, ancora più ci sarà quest'anno. Siamo entrati, dice l'Agenzia dell'ONU per l'Ambiente, in una nuova era climatica. E poi alla Camera è arrivato il disegno di legge taglia stipendi del Movimento 5 Stelle. Poi lo stop del Presidente della Repubblica Mattarella sui vaccini, dice sconsiderato criticarli e applaude al fondo per i farmaci sul cancro, dice bisogna investire in ricerca. E poi la donna morta di parto a Catania, per ispettori le cure sono state adeguate, e altra notizia di cronaca è che per la donna scomparsa nell'Aretino nel 2014 è stato condannato il frate di origine africana, condannato a 27 anni per omicidio e soppressione del cadavere di Guerrina Piscaglia. Youzone, incontro con gli europarlamentari. Bentrovati gli ascoltatori di Radio 24 da Silvia Bernardi. Cosa hanno in comune un centro di ricerca e il terrorismo? Moltissimo. Il rilancio del Centro Europeo di Ricerche di ISPRA avviene in chiave antiterrorismo. Diventerà un polo europeo per lo sviluppo di nuove tecnologie di difesa. Questo obiettivo è uno dei punti al centro delle indicazioni contenute nel parere sulla difesa UE approvato a Bruxelles dalla Commissione Industria dell'Europarlamento. Il centro di ISPRA, ex Euratom, in provincia di Varese, è un istituto della Commissione Europea che attualmente svolge un ruolo di coordinamento e ricerca in diversi settori. Spazia dall'energia alla tutela dell'ambiente, dalla salute dei consumatori alla prevenzione dei terremoti e catastrofi naturali. Con il progetto che ha mosso i primi passi, ISPRA diventerebbe un polo per lo sviluppo di nuovi sistemi di difesa, anche attraverso le tecnologie satellitari, divenendo un catalizzatore per fondi e competenze degli Stati membri, anche attraverso la collaborazione delle aziende del settore. Ne parliamo con l'europarlamentare Lara Comi, che saluto, e alla quale chiedo cosa prevede il progetto, cosa diventerà il centro di ISPRA se ci sarà il via libera della Commissione. Un saluto a tutti voi, le ringrazio per questa domanda, perché per l'Italia sarebbe un grandissimo passo avanti, quindi i nostri cittadini si potranno sentire più sicuri e più protetti. Qual è stata la mia proposta approvata in Commissione Mercato Interno? Quella di utilizzare il centro JRC, quindi il Joint Research Center che si trova a ISPRA, perciò in provincia di Varese, come polo di ricerca ed innovazione per le armi da difesa. Considerate che questo centro è già di competenza della Commissione europea, quindi non si creano delle sovrastrutture, si cerca di armonizzare tutto quello che è la ricerca e l'innovazione europea all'interno di quello che è la Commissione. Ci saranno ricadute positive in termini occupazionali ed indotto? Assolutamente sì, in particolar modo io mi auguro anche lo sviluppo delle infrastrutture e degli aeroporti, tra i quali Malpensa. Ispra ha attorno a sé una serie già di imprese importanti della difesa, tra quali l'Augusta, la Ermati, la Beretta, la Chiocchi, che sono tutte all'interno del territorio lombardo, ma sarà un elemento di attrazione molto forte anche per altre imprese europee. Quali saranno i finanziamenti disponibili? Guardi, questi devono essere stabiliti in un secondo step dalla Commissione. Noi abbiamo detto che invece di fare degli investimenti a pioggia e a spot è meglio avere un progetto continuativo e costante legato all'Unione Europea della Difesa. Tutto questo però deve avere il supporto anche del governo italiano, quindi la Commissione non può dir di no essendo un suo organo, ma quello di cui abbiamo bisogno è convincere il Consiglio Europeo. E per questo motivo è fondamentale la partita che il Premier Renzi deve fare in Europa. Youzone, incontro con gli europarlamentari. In collaborazione con Euronet Plus. Ancora un po' di spazio ai vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi giorno e notte, oppure il numero per i messaggi WhatsApp 349-238-6666. Roberto da Milano scrive: cara omonima, io Roberta, dice, è tutta demagogia di bassissima lega quello del taglio dei stipendi dei parlamentari. Il problema non è la retribuzione, piuttosto la qualità dei parlamentari, scandalosamente bassa. Il loro compito, scrive Roberto, sarebbe importantissimo. Ricorderei il detto inglese: if you pay peanuts, you get monkeys. Se tu paghi noccioline tu guadagni carichi, insomma delle scimmie, ecco, questo è il significato. E poi opinioni contrarie sui cambiamenti climatici. Andrea che dice: non è dimostrato che CO2 faccia variare il clima è sempre cambiato anche quando l'attività umana non c'era, cita il professor Zichichi. Mentre Max, di opinione contraria, scrive: dovreste leggere von Clausewitz, non si interverrà sul clima finché non saremo arrivati sul ciglio del baratro. Noi invece, non so se sul ciglio del baratro, caro Giovanni Capuano, l'allenatore dell'Inter. Ma ciao Roberta, ciao, guarda, per qualcuno è addirittura oltre, è già dentro il baratro. È difficile mettere in fila le notizie, nel senso che la certezza è che oggi c'è stato un lunghissimo vertice, è stata una giornata lunghissima, quella dell'Inter, iniziata alle 8 questa mattina, quando Frank De Boer è andato da Piano Gentile dopo, insomma, la domenica terribile ieri a Bergamo con la terza sconfitta consecutiva. Ha avuto, oltre all'allenamento del giorno dopo, ha avuto anche una serie di confronti, l'ultimo con Zhang Junior, che è il figlio di Mr. Zhang, che è in arrivo, è il signor Suning, è in arrivo a Milano nelle prossime ore, perché questa è una settimana particolare per l'Inter, che deve fare il bilancio dell'ultima stagione. Da quello che si sa, insomma, c'è stato un lungo confronto e De Boer sarà in panchina per Inter Torino mercoledì sera, perché è stata annunciata per domani alle ore 13 la conferenza stampa del tecnico olandese, e quindi non si aspettano ribaltoni. Ma diciamo, quello che trapela è che in realtà il suo destino sarebbe segnato a prescindere. Chi sarebbero i papabili, quindi, Giovanni? Per sostituirlo. Sta prendendo forza la soluzione italiana, c'è un traghettatore italiano, Pioli, Mandorlini o Guidolin, questi sono i tre nomi. Qualcuno cita Guidolin, un ascoltatore dice: ma si potrebbe prendere Guidolin, che dici tu? Si può perché ha appena terminato il suo contratto con la squadra gallese dello Swansea, non è andata benissimo, ma ha fatto comunque una bella esperienza in Premier League, è esperto, conosce molto bene il campionato italiano, avrebbe anche diritto ad avere una grande occasione nella sua carriera, e quindi potrebbe anche essere il nome giusto. Però la verità è che alla fine decidono i cinesi, potrebbero anche scegliere per un nome con un più alto profilo internazionale. Abbiamo ancora un minuto per il pallone d'oro, quale candidato anche Buffon? Buffon, Dybala e Higuain, questi sono i tre giocatori che vengono dalla Serie A e che sono candidati, sono nella lista dei 30 che è stata pubblicata oggi da France Football, che è la rivista francese che è tornata ad appropriarsi del pallone d'oro, è finita finalmente la partnership con la FIFA che aveva creato tantissime polemiche. Nei 30 ci sono tutti i migliori europei, ovviamente ci sono Ronaldo, Messi, Neymar, Iniesta, Bale, Lewandowski, c'è Ibrahimovic, ci sono questi tre giocatori oggi della Juventus. Higuain è dentro in realtà per il record di gol fatto l'anno scorso con il Napoli. Si decide il 13 dicembre, non ci sono possibilità né per Buffon né per gli altri due juventini di arrivare sul podio. Il grande favorito è Cristiano Ronaldo, ma tanto rispetto all'anno scorso ci saranno certamente meno polemiche. Grazie Giovanni Capuano, ciao Giovanni. Grazie a te. Ciao, e ringrazio i vostri messaggi, anche quello di Alberto. È in chiusura, noi ci riaggiorniamo alle 22.